verso il voto. Un saluto ai nostri ascoltatori e benvenuti alla pagina politica. Ore decisive per la chiusura delle liste. Partiamo dalla sinistra arcobaleno con un'auto-esclusione eccellente. Il servizio di Alessandra Schepisi. Con un gesto a sorpresa, il segretario dei comunisti italiani cede il posto ad un operaio della Thyssen. Diliberto fa un passo indietro e rinuncia alla sua candidatura in Parlamento a favore di Ciro Argentino. Sarà lui capolista in Piemonte. I comunisti sono diversi da tutti gli altri. Per questo motivo il segretario del partito, cioè io, ha deciso di lasciare il Parlamento senza paracaduti, senza altre candidature. Rispondere con i fatti e non con le chiacchiere alle polemiche sulla casta, dimostrando che non tutti i politici sono uguali, spiega Diliberto, che replica così alle critiche del Partito Democratico che aveva accusato la sinistra arcobaleno di non voler candidare operai. Così ci sarà un operaio in più in Parlamento, dice Diliberto, che continuerà comunque il suo impegno politico come segretario di partito. La politica, dice, si può fare bene anche fuori dalle istituzioni. Il candidato premier del Partito Democratico Veltroni ha definito un bel gesto quello di Diliberto. Veltroni, poi da Ravenna, ha rilanciato l'esigenza di un nuovo patto nel mondo del lavoro. Ci sono tanti piccoli imprenditori e io ne ho incontrati tanti in questo viaggio, tanti operai che sono diventati imprenditori, che si spezzano la schiena, che rischiano, che vanno in banca, mettono l'ipoteca sulla casa per fare quell'investimento che non sanno se gli darà il reddito che prevedono e che immaginano. Quelli lì non sono padroni, sono lavoratori come gli altri e noi dobbiamo sentire l'alleanza tra lavoratori dipendenti e questi lavoratori che intraprendono come la vera nuova sfida. Nel suo tour elettorale Veltroni ha fatto tappa in provincia di Bologna anche allo stabilimento della Ducati e si è detto fiducioso su un buon risultato elettorale. Devo dire che c'è un clima nuovo di affetto, di partecipazione, insomma. Penso che abbiamo un clima di entusiasmo che non avevamo da tantissimo tempo e questo è già una buona base, perché in una politica fatta di odio, di cupezza, di contrapposizione, noi mandiamo un messaggio invece di serenità e di cambiamento, evidentemente sta dando i suoi risultati. Candidature in primo piano anche per il Popolo della Libertà, dicono sì a Berlusconi e Fini tra gli altri, il vicepresidente della Commissione Europea Franco Frattini, Barbara Contini, ex governatore di Nassiria, Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare. No invece da Antonio D'Amato, ex presidente di Confindustria, che potrebbe essere però il candidato del PDL per la futura corsa governatore della Campania. Il punto sulle candidature nel PDL da La Russa, Alleanza Nazionale. Rinnovamento senza competenza e professionalità non significa niente, potrebbe significare far finta di mettere un precario e mettere uno qualunque che manco è precario, significa trovare il figlio di un imprenditore che non ha mai fatto un giorno d'impresa. Noi abbiamo scelto altro modo, rinnovamento ma con qualità, professionalità, competenza, donne e giovani, ma non donne qualsiasi. Non basta essere donne per entrare nel Popolo delle Libertà. Le faccio esempio di tre donne. Una è la signora Roccella, esponente del mondo cattolico. Una è Suada Sbai, esponente del mondo islamico moderato contro il terrorismo. L'altra è Fiamma Nierenstein, una persona di grande spessore culturale di religione ebraica. Voglio dire, non basta essere donne, bisogna anche esprimere dei contenuti, dei valori. Così come non basta essere uomini, bisogna esprimere competenza, professionalità, contenuti. Non ci sarà un pareggio al Senato tra PD e PDL, dice intanto Fini. Veltroni aggiunge ancora: il leader DN è un abile propagandista, ma mostra la corda. Una stoccata da Fini anche a Casini è paradossale, spiega che si dia vita a un nuovo soggetto politico che in pratica è la vecchia UDC più Pezzotta. Spostiamoci ora proprio all'Unione di Centro, che ha presentato il suo programma. Il partito dei cattolici siamo noi, non il Popolo della Libertà, ha detto Pezzotta, il servizio di Francesca Malagutti. Un programma decalogo consolida l'unione tra UDC e Rosa Bianca e sarà un matrimonio indissolubile, assicurano i vertici. Savino Pezzotta. Non ci vogliamo fermare a un patto elettorale. Diamo avvio anche alla costituente di un nuovo soggetto. Tra le priorità, bonus e detrazioni alle famiglie in base al numero dei figli, case a basso costo per le giovani coppie, tolleranza zero anche verso la microcriminalità, via libera alla realizzazione di infrastrutture come la Torino-Lione. E Pier Ferdinando Casini assicura che dopo il voto non ci saranno sorprese. Non esiste l'ipotesi di parlare di alleanze post-elettorali. Le alleanze si fanno prima delle elezioni. Noi non faremo sconti e non faremo gli tappabuchi a nessuno. Il capitolo par condicio, Bertinotti annuncia una manifestazione sotto la RAI per il 13 marzo. I piccoli lamentano la loro scarsa presenza sui mezzi di comunicazione, così Boselli dei socialisti. Sono stato oscurato da tutti i canali televisivi nelle trasmissioni del dopo cena. La maggioranza degli italiani non sanno neppure che sono candidato premier o che c'è il Partito Socialista. Verso il voto finisce qui. Questa edizione è stata curata da Andrea Viali e Vincenzo Miglietta, che vi saluta.